vedo camminava lungo le strade in festa teneva la fame per mano e in tasca una foto in bianco e nero. Era la vita, una partita che sempre vinceva con una carta nascosta giocava senza ritegno barava. Lui la sua voce era la colonna sonora della sua malinconia. Per lui il suo profumo era già anima vuota e aria. Vedo si fermava lungo la sponda di ghiaia, guardava le sue dita bagnate di pioggia e un freddo che abbraccia le ossa. Mentre affondava nella sua foto il colore tornava, il bianco e il nero macchiavan le dita e col sorriso sfioriva. Lui quella foto era la speranza ormai pallida che oggi non ritornerà se non con la sua storia.